pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia del poeta Alessandro Chiesiurin, dal titolo Tenue. Piegato da conati di autentico terrore, fuggo dall'aberrante e esangue l'anima, tenue nel pallore stanco del mio corpo. Vi leggi sconfitte, tra righe parallele non mi accoppio mai, traslo solo nel fondo.